Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. I problemi di regia non ci lasciano mai soli. Ma noi andiamo avanti lo stesso! Non ci arrendiamo mai! E insomma, allora ragazzi, questa sera grande puntatona, parleremo di una grande passione dei belgi, parleremo del fare associazione. Parleremo di associazioni e parleremo con una persona piena di passioni. Voi sapete che noi, Rossella, Tiziana e Leandro, siamo tutti siciliani, ma questa volta abbiamo... Sorpresona! No, una non siciliana! Una che sa fare bene i tortellini, I tortellini! I tortellini! Una sa fare bene le lasagne! E allora, ragazzi, vi presentiamo qui a Radio Alma, sui colori dell'anima Bruxelles, la nostra amica Katia da Bologna! Buonasera a tutti quanti! Ciao Katia, ciao! Allora, tu che cosa fai qua di bello a Bruxelles? Sono in radio insieme a voi. Adesso l'avevamo capito. Cosa faccio in Belgio? Sì. Sono qui già da 3 anni e, come dicevamo, la mia passione è diventato il mio lavoro alla fine, e lavoro per un'associazione belga. Ah, perfetto, perfetto. E dimmi un po'... Cosa ci racconti del mondo delle associazioni? Cioè, uno in Italia che sente associazioni dice sì, vabbè, pensa magari agli scout, pensa alle associazioni di volontariato, di radice cristiana, tante volte, cattolica, però, diciamo, numero uno non si immagina più di tanto quali altre cose possono fare le associazioni. Numero due, si chiede, vabbè, lavori per un'associazione, ma che vuol dire? No, non vendiamo brustolini, come diciamo a Bologna. No. Castagne. No, quello per Natale. Però, no, la realtà belga è diversa da quelle italiane. Le associazioni in Belgio sono nate già tantissimo tempo fa. Ce ne sono di più di... ce ne sono veramente un numero variegato e delle attività variegate, e soprattutto sono già da 60-70 anni in Belgio, come per esempio quella nella quale sono già 2 anni, dove lavoro già da 2 anni in questa associazione, che raggruppa i giovani, che raggruppa la gente che ha voglia di fare attorno alla pedagogia, all'animazione e alla formazione per i giovani. Ho capito, ma senti un po', insomma, in Belgio come si vive la realtà delle associazioni? Che cosa ha di particolare, per esempio, è di diverso rispetto all'Italia, l'associazionismo? Beh sì, un po' come diceva Tiziana prima, si tende a dare la connotazione alle associazioni qualcosa di cattolico. In Belgio non è solo cattolico, è una parte della realtà, ma ci sono associazioni anche stampo non cattolico. Questo anche grazie al fatto che la società belga è multiculturale, e quindi per permettere ai giovani di investire, di fare qualcosa, di mettersi insieme, di fare gruppo, di creare delle attività, hanno permesso di farlo su diversi orizzonti, che sia liberale o socialista, perché quelli sono i 3 pilastri più importanti del Belgio. Ho capito, e penso che appunto le associazioni, come dire, sono presenti nella realtà della maggior parte dei belgi sin da giovani, no? Sì, quello che, a cui mi riferisco sono le organizzazioni della gioventù. Ho capito. In questo caso le organizzazioni della gioventù, e i giovani sono portati, vengono incoraggiati a entrare in questo mondo già da bambini. E adesso arriviamo, tra virgolette, a 4-5 generazioni della stessa famiglia che fanno parte dello stesso movimento della gioventù. Quindi questo comunque incoraggia. Quindi, il papà, il nonno, facciamo, sì, il nonno se è giovane, sì, se ha 50 anni sì. Oh, però partiamo dai 4 anni ai 50-60 anni volentieri. Ah, è un modo appunto per fare comunità, per fare tante cose insieme. Sì. Esattamente, per esempio, cosa fate voi? Beh, l'associazione dove sono io è nata proprio da questo movimento scout, e l'idea di non solo costruire le casette in mezzo al bosco, ma di mettersi intorno all'animazione e alla pedagogia, proprio per imparare a stare insieme, a crescere la propria stima di se stessi, a fare gruppo, tutte queste cose che normalmente non vengono insegnate direttamente a scuola. E quindi l'associazione per la quale lavoro, che si chiama Résonance SBL, Réseau Formation Jeunesse, ora lo mettiamo su Facebook. Mettiamolo su Facebook, il sito dell'associazione Résonance, e voilà. sì, facciamo sostanzialmente la formazione per i giovani. Ho capito. Benissimo, senti, allora facciamo... Io ti interromperei un attimo perché io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori che ci ascoltano e ci scrivono su Facebook, diteci se ci sentite, se non stiamo parlando da soli, ci interessa. Fateci sapere, mo ci sentite? Scriveteci su profilo Facebook Rossella, Tiziana e Leandro on air. E ancora una volta salutiamo la nostra compagna di viaggio Rossella, che in questo momento non c'è, ma ci sta ascoltando, quindi è la nostra compagna di viaggio Serena. Ciao ragazzi! Grazie. Allora, invece io direi di partire, di proseguire con un'altra canzone che praticamente ci dà un'aria di cambiamento, giusto Tiziana? Giustissimo, te la lascio presentare con molto piacere e la lancio subito. E allora, Wind of Change degli Scorpions. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci di nuovo qua, carissimi amici radioascoltatori, qua con Rossella, Tiziana, Leandro Nere dei colori dell'anima. Questa sera abbiamo in studio una nostra carissima amica, Katia. Katia la da Bologna. Da Bologna proprio, sì, io. Sì, proprio, eh. Non si tutta sente. La serata ci accompagnerà con questo delizioso accento bolognese che non abbiamo mai avuto. Noi abbiamo sempre siciliani, anche il nostro accento insomma si sente. Esatto, e quindi appunto ha scelto lei proprio, Katia, questa canzone Wind of Change degli Scorpions. Perché, Katia, dici un po'? Ah, perché quest'aria di cambiamento, questa voglia di investirsi, di fare qualcosa, la volontà di creare fin da giovani un mondo un po' più giusto, il fatto che la gente si mette insieme per stare insieme, ma anche per creare questo senso di responsabilità comune da portare avanti sì, in questo senso, dare un'aria nuova a qualcosa che fondamentalmente esisteva già, però l'effetto di mettersi insieme, di crearlo e di istituzionalizzarlo, perché in Belgio le organizzazioni della gioventù e le associazioni sono finanziate dagli stati federali. Ah, quindi è lo Stato che li finanzia? Sì, in particolar modo la realtà che conosco io è finanziata dalla comunità francese. Okay, quindi fa parte della francofona. Del francofono, esatto. Okay, quindi, capito. Per dire che non, come dicevo prima, non vendiamo brustolini, cominciamolo. Non si vendono brustolini. No, non li vendiamo. I tortellini? No, facciamo formazione. I tortellini a Natale. Ragazzi, quanto sono buoni i tortellini, ragazzi miei, a Bologna. Aspetta di mangiare le lasagne di Ines, sono migliori. Allora, ma voi fate anche corsi? Che corsi fate, per esempio, come corsi di formazione? Non lo so, quelli insegni a fare i tortellini, per esempio? Quello l'anno prossimo, se abbiamo un po' di gente di quell'italiana, bolognese, che vieni pure. Se si mangia pure, assolutamente. Aspettiamo, no, i corsi sono principalmente su tutto quello che è il mondo giovanile, quindi per esempio il brevetto d'animatore centro vacanze, quindi i giovani che hanno 16 anni possono venire da noi, stare una settimana insieme a noi a travestirsi, sembra una roba da matti, no? Ci possiamo fare come una sorta di carnevale, però per tutta una settimana, imparando come si gestisce un gruppo, come si sta con i bambini, come si può far star bene i bambini in questo concetto di bien traitance, come dicono in Francia, qui in Belgio, e tutto quello che è la formazione e l'animazione legata al mondo giovanile, ma potrebbe essere anche in modo indiretto, le persone che lavorano a scuola con i bambini, per esempio, quindi insegnare alle persone adulte che bisogna avere una certa attitudine positiva, che bisogna responsabilizzare i bambini fin dall'inizio, cioè è come insegnare a pescare piuttosto che portare il pesce già sulla tavola. Non va d'accordo con i tortellini, però però sempre maniamo. Senti una cosa, Katia, ma qual è il target di persone che vengono a questi corsi? Chi sono le persone interessate? E come si fa nel momento in cui si è interessati? È l'azienda o la scuola o lo Stato che ti manda a fare il corso? È la singola persona che è interessata, vuole migliorarsi, vuole imparare qualcosa e viene? Come funziona? Ci sono diversi canali, se possiamo chiamarli così. quelli principali è essere volontario nelle altre organizzazioni della gioventù o movimenti della gioventù, quindi come dicevo prima, il fatto che tu a 4 anni sei già in mezzo a questo movimento non studentesco, dei giovani, giovanile, grazie, ti permette di investirti fino a un certo punto, quando hai 15, 16, 17 anni e voglia di tu animare il gruppo dei bambini, quindi quello tra virgolette è il nostro pubblico, è la gente che è già nelle organizzazioni della gioventù e vuole imparare ancora di più, quindi noi abbiamo l'esperienza o gli approfondimenti necessari per poter insegnare ai giovani a gestire un gruppo, a stare insieme e quindi a formare anche un possibile lavoro, no? Esatto, ma ci sono anche opportunità proprio lavorative all'interno di queste associazioni, che ne so, se ci sono altri giovani italiani che sanno bene francese che cercano lavoro. Sì, ci sono delle opportunità. Ci sono. Si lavora. Come si dice in bolognese? As lavora. Cioè, io con l'accento siciliano fa un po' meno, però è così. Ah, e quindi come si fa per esempio a trovare lavoro in questa associazione? Beh, posso raccontarti un po' la mia di esperienza. Ah, sì. Un po' la mia di esperienza. Sì, ma infatti io, scusa se ti interrompo, ti volevo proprio chiedere, dicevi che in queste associazioni soprattutto vengono coinvolte le persone che magari ci sono cresciute, che sono andate da piccoli, che avevano il nonno, il papà, eccetera eccetera, la settima generazione, anche il vicino di casa. Quindi, ecco, anche il vicino di casa, quindi, ma tu italiana, bolognese, come ci sei finita nell'associazione? Tuo nonno. No, non c'entra il nonno. No, c'entra solo Katia Giovanetti. No. Ma ci sono arrivata perché questa voglia di fare, questa voglia di far gruppo, di stare in mezzo alla gente, di non sentirmi sola, una sola bolognese a Bruxelles, ero volontaria e sono ancora tuttora volontaria in un'organizzazione della gioventù che favorisce l'interculturalità. Oh. Allora, tramite questa voglia di conoscere un po' culture diverse che non siano solo i tortellini e i siciliani che sono di fianco a me, basta la norma. Sì, quindi insomma ero volontaria, sono ancora tuttora volontaria in questa organizzazione. Da lì è nata poi una opportunità di lavoro che non che c'entra con la formazione, però io non sono laureata o non sono. Tu quindi non hai sempre lavorato in questo settore? Cosa facevi? No, ho lavorato nelle grandi aziende americane, però. Proprio United States, sì, però non corrispondeva ai miei valori. Cioè, io avendo studiato l'economia, venendo da una realtà semplice ma genuina, come se possiamo dire, avevo voglia di dare un senso a quello che avevo studiato. Avendo studiato l'economia, delle cifre senza senso non faceva per me. E quindi questa opportunità di mettere del sociale a delle cifre che non sempre viene messo in risalto era per me una grossa opportunità. E quindi questa voglia di fare, un po' conoscevo la contabilità, un po' la voglia di stare in mezzo alla gente, di far formazione, oh, voilà, mi interessava un po' tutto questo bagaglio, sono stata presa. Quindi i numeri hanno fatto anche i miei di numeri dopo, anche se alla fine tutti i giorni mi ritrovo a fare bilanci, budget, sovvenzioni. Però parlare un po' con un altro senso, parlare un po' con il ministro, dirgli: oh Ciccio, dammi un po' di soldi che li vado a investire per i giovani. Dai Ciccio, dammo se quali skate, questo è Veneto, come si dice in emiliano? I bayouk. Oh, vogliamo i bayouk. Sentite, allora ragazzi, qua puntata spumeggiata questa sera direttamente da Bruxelles, e infatti qua piovono commenti. Allora Cecilia ci conferma, sì, vi sentiamo, grazie Cecilia. Ah, perfetto. E Federica da Bologna dice: ciao, vi sentiamo da Bologna, un saluto grande, un bacione a Katia, da Federica e Ruben. Ciao Federica. Ciao Fede. Ciao. E allora, io volevo chiederti una cosa. Ti stavo ascoltando, ascoltavo come sei arrivata in questa azienda, percepivo tutta la passione, la voglia di fare, la voglia di renderti attiva, l'entusiasmo. No, guarda, quello proprio non si sente. Che no? Ci ha travolti da quando l'abbiamo conosciuto. Ciccio, dammi Bayouk, forza! Ministro, dai! È successo, non ho chiamato Ciccio però. Meno male. Quasi. Anche perché mi sa che in francese non suona. Però il senso del Dame Bayou che gliel'hai dato. Il Dame Bayou l'ha capito. Perché sono arrivati dopo. Il mio capo era più contento di me. Brava Gadia. Ma come ci sei? Io prima ti ho fatto la domanda senza specificare troppo. Ma io sono curiosa, voglio sapere di più. Come ci sei arrivata qui? Cioè, dici un po' della tua storia, perché secondo me una persona così ha una storia veramente interessante dietro, a parte il lavoro che fa in questo momento, che già ha tanto da dire. Però diciamo che ho girato un po' prima di arrivare a Bruxelles, però alla fine è anche grazie ai miei genitori che quando ero bambina vai un po' a Cortina dalla nonna a vedere se ci sono ancora le capre che fanno ciao come Heidi, quindi già là da sola a Cortina tre mesi d'estate, poi in giro con la roulotte e poi al mare, sempre posti stravaganti, giro a destra e a manca, finché alla fine quando avevo 20 anni mi sono stufata, tra virgolette, e sono andata un po' all'estero, quindi me ne sono andata in Francia a fare la ragazza alla pari e poi dopo volevo imparare un po' meglio l'inglese, allora sono andata di nuovo a fare la ragazza alla pari in Inghilterra e poi tanto per cambiare sono andata in Finlandia e poi alla fine il destino mi ha portato a Bruxelles. Oh, ma tu a casa ferma non ci sapevi proprio stare, girava tutto il mondo! E allora qui ti interrompo e ne approfitto per collegarmi con... faccio un collegamento fantastico. Dai, collega! Dai, che viaggiamo un po'! Lanciando la nostra canzone che faccio, anzi, lanciare direttamente a Katia. Beh, adesso ascoltiamo un po' di Lucio Battisti con Si Viaggiare. Grande! Oggi dico che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ciao a tutti, buonasera a tutti carissimi amici, eccoci qua di nuovo con tra Rossella, Tiziana e Leandro Neri dei colori dell'anima. Ciao! E qui stasera abbiamo Katia da Bologna! Buonasera! Che ci sta parlando di sé e delle associazioni qua in Belgio. Ma mi stavi appunto ricollegandoci appunto a questo tema, no, del viaggiare. Tu hai viaggiato tanto, no? Sei andata in Francia, in Inghilterra, in Finlandia, a Cortina. vabbè. E poi sei venuta a stare qua a Bruxelles. Ma perché? Cosa ti ha spinto veramente a rimanere qua in questa città? Beh, diciamo che ci sono arrivata prima tramite il progetto Erasmus e quindi 6 mesi a Louvain-la-Neuve ho conosciuto un sacco di gente e ho scoperto il calore umano proprio. Diciamo che noi italiani e i bolognesi così siamo calorosi così. Guarda, nessuno se n'è accorto veramente. Qua l'ho chiuso in fiamme, la regia sta prendendo fuoco. No, che chiamano i pompieri, lascia stare. però in Belgio quello che mi ha stupito è proprio questo calore della gente e questa voglia di stare insieme, e quello era quello che mi mancava un po', questa area di gruppo, e poi il fatto che sia a Bruxelles soprattutto è multiculturale, cioè puoi fare il giro del mondo stando al Parvé di Saint Gilles a berti la tua più bella birra belga, però lo puoi fare con 5, 6, 10, 15 nazionalità diverse intorno alla tavola, e che diciamo che questa voglia di stare in mezzo alla gente, di scoprire cose nuove, di anche mettere a frutto la mia esperienza insieme ad altri, questo dibattito, questo scambio, era quello che insomma, a me mi piace stare in mezzo alla gente. Sì, mi piace un sacco. Questo l'hai trovato più a Bruxelles che in tutti gli altri posti in cui sei stata. Sì, devo dire che in Francia io sono stata bene, in mezzo ai bretoni si stava bene. Però per esempio, non hai trovato a Londra, questa dimensione. A Londra non ho trovato questa dimensione, in Finlandia no, non fa per me, addirittura le panchine sono individuali, non hanno le panchine per fare gruppo, sui viali ci sono le panchine individuali. Che uno viene la voglia di tenerlo, di abbracciarlo e dire no, parla con qualcuno. Sì, o se no gli fai i gesti a 50 metri, ciao, sono arrivato. O ti siedi direttamente sulle sue gambe, allora lì qualcuno può equivocare. Dopo però si potrebbero creare delle buone sinergie. No, e quindi però, insomma, però si sono create queste buone sinergie anche a Bruxelles. Qua a Bruxelles. Sì, a Bruxelles si sta bene, perché poi c'è anche da dire che È vero, è la capitale d'Europa, tutti si sono attratti per le istituzioni europee, però non ci sono solo le istituzioni europee a Bruxelles, ci sono anche queste realtà strettamente belghe che iniziano solo adesso ad aprirsi ad un mondo un po' esotico come potremmo essere noi gli italiani. Ah, tra virgolette. Senti, ma praticamente quali sono i principi su cui si fonda, diciamo, l'associazionismo qua in Belgio? Cosa vogliono? Quali sono gli scopi, le finalità? Quello che posso io rendere partecipi gli altri sono soprattutto i principi che sono legati alle organizzazioni delle gioventù, perché è la realtà che mastico tra virgolette, certo, tutti i giorni, certo, insieme ai tortellini, perché sennò niente. E praticamente lo scopo dell'organizzazione delle gioventù è comunque contribuire a creare una società più giusta e soprattutto in cui la gente si senta cittadina, responsabile, attiva, critica e solidale. E sono le quattro iniziali di CRAX. Allora, quando tra i corridoi dell'organizzazione della gioventù si sente dire CRAX, non è una marca di cracker, eh? Sono i principi sulle quali si fondano le organizzazioni. Ripetiamo come en français, come se dice. En français, on peut dire c'est citoyen, responsable, actif, critique e solidaire. Citoyen, responsable, active, critique e solidaire. Ma a noi farebbe piacere che pure in Italia ci fosse qualcosa del genere. Infatti, un po' di speranza diamola che si può cambiare, si possono fare le cose in modo diverso, con una mentalità diversa. E bisogna partire formando i giovani da quando sono piccoli, da quando sono prima che diventino giovani, ancora prima. Ma se vuoi si può mettere sempre un foulard degli scout intorno alla pancia della madre quando è incinta, perché... Sì, però il problema è sempre quello che gli scout sono visti come, vabbè, uno va in chiesa, fa gli scout, quindi diciamo impoveriscono un po', cioè ma si dà un'idea negativa del movimento della gioventù, quando in realtà non è negativo e non è sempre non si deve sempre dare una connotazione cristiano-cattolica o relegata a Dio, anche se non c'è niente di male, assolutamente, però quella è una dimensione. Esatto, è una dimensione, ma accanto a tutto questo ci sono appunto questi principi che potremmo comunque mettere a profitto e fare in modo che diventano anche dei valori che possono essere utili tra virgolette anche per la vita futura, una vita lavorativa, all'università o solo per essere un po' più attenti al proprio vicino quando si cammina per strada, un bel sorriso anche sul viso quando si incontra la gente non sarebbe poi neanche così male. Brava Katia, ci sei piaciuta, grande, e praticamente non sei solo piaciuta a noi, qua stanno piovendo commenti. Ciao Katia, ti sento in radio, sei strepitosa, ci arriva un nostro amico. Grazie. È vero, noi lo confermiamo, Katia è assolutamente strepitosa. E quindi praticamente ci stavi dicendo un po' quindi della tua esperienza, insomma, della dici un po' quali sono le caratteristiche che devono portare avanti, motivare chi fa questo tipo di mestiere anche? Che domanda difficile che mi fai, stavo per dire una parola bolognese, però diciamola questa parola bolognese, diciamola, la vogliamo dire, socia, non diciamo cosa vuol dire, però i bolognesi capiranno. Ma questa domanda è difficile, non me la ricordo già più. Diciamo, quali sono le motivazioni che spingono poi, insomma, a entrare nel mondo dell'associazionismo giovanile, oltre che fare, insomma, cioè è un modo anche per stare insieme, anche, no, penso. Sì, oltre al fatto di essere socievoli o di aver voglia di stare in mezzo alla gente, bisogna tra virgolette sposarsi, se si può usare questo termine, con i valori che si ha voglia di condividere, perché se anche nel mio lavoro, che io alla fine conto i soldi, quelli che entrano e quelli che escono tra una formazione e l'altra, è importante vedere dove vanno a finire e vedere che senso si dà. Se io alla mattina ti svegli e dici adesso metto a budget 1.000 euro per andare a fare una stupenda camminata, una stupenda camminata insieme a dei giovani per spiegare qual è il sistema di sicurezza belga, come un gruppo di 50 persone non può girare per strada invadendo la carreggiata e impedendo le macchine di passare, ha comunque un senso, perché sai che quando questi ragazzi torneranno a casa diranno comunque ai loro genitori genitori, oh, oggi abbiamo fatto una cosa geniale, abbiamo imparato come si cammina in strada in gruppo, e comunque e ti è qualcosa di valore, certo. Ma tu vai a fare anche le formazioni? Sì, ogni tanto mi hanno travestito e da hostess dei volo, non so che cosa ci hanno visto per vestirmi così, però sì, una settimana in mezzo ai giovani sedicenni per fare l'animatrice e coordinazione logistica per la formazione brevetto animatore centro vacanze. Sì, quindi ogni tanto esco dal computer e vado in mezzo ai giovani, così. No, però ci vuole della gran volontà, ci vuole della volontà e della voglia di stare di far gruppo e soprattutto di trasmettere dei valori, quella è la cosa più importante, non è solo far gruppo, è chiaro che quando si è insieme si ha la tendenza a dire che quando si è da soli si va più veloce, sì, ma quando si è in gruppo si va più lontano, ed è questo quello che poi alla fine... E qual è la differenza un poco che vedi con l'Italia, col modo... Con l'Italia, il modello belga per me potrebbe essere un esempio, perché qui le associazioni sono nate 60-70 anni fa, in Italia iniziano a nascere adesso. Le associazioni di giovani che hanno voglia di fare, non mancano in Italia, non mancano, però purtroppo non c'è questo supporto a livello legale, se possiamo dire, legislativo e a livello economico anche, i soldi. Già fanno fatica in Belgio a trovarli per dare alle associazioni, in Italia la vedo dura. In Italia non neanche dove prendo. Oh, in Italia vi mandiamo ora Katia, così dice pure voi Ciccio, caccia, come si dice? Dammi Bayouk. I Bayouk. Ma mi sa che mi dicono anche vamo a Katia le mei. Non vogliamo sapere che cosa significa, come l'abbiamo intuito. Oh, se lo vuoi sapere, non è una parolaccia, stavolta non lo è. E allora, visto che abbiamo parlato di passioni, di fare le cose con l'anima, che a noi piace, come direbbe Rossella, a noi ci piace questo. Ciao Rossella. Come direbbe Rossella, a noi ci piace questo. E allora ne approfitto per lanciare la prossima canzone, che si chiama Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Di Francis, leggilo tu, che Cabrel, Francis Cabrel. Francis Cabrel, voilà. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci di nuovo qua, carissimi amici, eccoci di nuovo qua, scrivete su Rossella, Tiziana e Leandro Oneir. Già, infatti Cristiano ci scrive, ciao Katia, ti sento in radio, sei strepitosa, Cristiano, il tuo caro amico da Bologna, chi è questo Cristiano? Cristiano? Ah, non conosco mica io. Ma no, no, sai com'è, per viaggiare un po' bisognava imparare anche un po' l'inglese, e sto ragazzo l'ho conosciuto al corso di inglese, quindi andavamo un'ora al corso di inglese, quattro ore nel bar di fianco. Quante lingue sai? No, ne ho una sola in bocca. No, cosa? Che lingue sai parlare? Allora, l'ampezzano, il bolognese, perché vengono dalle mie origini, un po' di italiano, se non mi sbaglio, col francese. E quando dici ci dobbiamo investire, ci dobbiamo investire. Sembra che uno sono bel camion in faccia, no, ti dà una carica. Ci investiamo. Cioè, succede, a volte quando il cervello è uno solo, le lingue sono due o tre, fanno un po' di confusione tra di loro. Per carità, stavo scherzando. Io mi impappino continuamente. una delle poche italiane a Bruxelles che oltre che il francese sa pure un po' di fiammingo. Cioè, poca roba, mi sono già dimenticata. Dici una parola in fiammingo. Ich au van. Non sappiamo cosa ha detto, non prendiamo nessuna responsabilità. Non è mica come soci in bolognese, no. Questa. No. Che hai detto? No. Che vuol dire? Ti amo. Sono andata sulla passione, la canzone Je l'aime à mourir, ti amo fino a morire. In effetti Katia, come avete capito cari amici e ascoltatori, è una donna piena di passioni che cominciano donna da Pennino. Ci andrei piano, donna, sono piccolina, io sono 1,54 m. Donnina, ecco, perfetto. Perfetto, un donino mi sta bene. Un donino, vai, vai. Ma un donino pieno di grinta e di passione, appunto. Invece ci dicevi che questa canzone viene cantata proprio nelle associazioni. Sì, no, praticamente c'è, come dicevamo prima, che Gelema Murir, sì, è una delle canzoni che viene cantata con la chitarra intorno al fuoco, ma soprattutto quello che ci terrei a dire è che il momento canto, come lo chiamano qui, è un momento proprio messo per iscritto in un decreto legge. Quando vuoi diventare animatore centro vacanze, devi per forza imparare non so quante canzoni. Quindi questa canzone, che è molto semplice da suonare con la chitarra, così metti insieme la gente, le riposa, rilassa, così prima di andare a dormire, e allora si canta spesso questa canzone. Che bello, a noi piace il canto, noi siamo presi dal canto sotto altri punti di vista, quindi tutto quello che parla di musica e di canto ci coinvolge particolarmente. E mi piace questa cosa che addirittura è scritto, sì, cioè sì, è una delle regole delle associazioni, il fatto che... bisogna cantare, perché bellissimo. Chi canta è felice. E ama la vita, e ama la vita, mm-hmm. E ama, insomma, tu di cose nella vita le ami tanto, appunto abbiamo messo prima viaggiare, no? Che è anche... Sì, è una bella canzone, sì, Viaggiare di Battisti, non solo perché riprende un po' le mie origini, quando parla quel genio del mio amico con un cacciavite, quella lì è una bella canzone perché ricorda quel matto di mio papà. Perché lui con un cacciavite fa di tutto, fa veramente di tutto, non c'è nessun problema, il suo motto affenna modifica con il suo bel fazzoletto rosso, insomma è una canzone che ha del significato, non solo perché è grazie a mio papà Luciano e mia madre Ines che mi hanno sempre portato scorazzato a destra a manca, ma proprio per questa manualità anche che bisogna anche avere, questa praticità che nella esatto. vita ci vuole, e questo coraggio, esatto. Io penso che conosco Katia da qualche annetto e devo dire una cosa, ve lo devo confessare, è stata la prima italiana che ho conosciuto a Bruxelles, anzi devo dire la prima persona che ho conosciuto a Bruxelles. E non hai avuto paura? No, anzi Katia, non solo con Katia non si ha mai paura, non si può avere paura. Oddio, ma Katia è praticamente una che affronta le paure e che insegna ad affrontare le paure, no? Anche perché... A meno che non te la metti contro, perché io penso che se te la metti contro, Katia, faccio peggio che con il ministro, infatti, il ministro se n'è accorto, ma chi me lo fa fare a me? Per quello che mi ha pagato subito. Subito, eh? Ma perché mi devo mettere in mezzo a queste cose? Io preferisco pagare. Ma infatti una cosa penso che no, che si vuole anche insegnare a non avere paura, no? Nel mondo dell'associazionismo per i giovani. Beh, sono dei valori che vengono trasmessi, sono dei valori che non impari a scuola sui libri, ma le puoi solo trasmettere facendo le cose. Per quello che anche i motti delle organizzazioni della gioventù, o anche quella dove lavoro io a Resonance, è la cosa pratica che funziona, la manualità, il fatto di l'avere stima di se stessa, avere fiducia nella vita, non avere paura viene anche attraverso le cose che si fanno, non cose complicate, cose semplici, però aiutano a essere aperti, a non aver paura di andare verso il prossimo, a fare un sorriso per strada quando incontri la gente e non aver paura del diverso. A Bruxelles è questo anche che si impara, hai gente di tutti gli orizzonti e non bisogna aver paura a parlare, anche solo che magari il mio fiammingo non è buono, il mio bolognese forse un po' meno, però bisogna, cioè il fatto di essere così aperti, di andare verso la gente, aiuta sempre, ti torni a casa e sei sereno, sei tranquillo, sono comunque questi scambi aiutano a sentire un po' caldo al cuore. Certo, e poi speriamo anche di sentire calda la pancia, magari quando con mamma Ines viene qua di nuovo a Bruxelles a fare le lasagne. Che non facciamo troppo pubblicità perché sono talmente buone che finiscono in fretta, quindi ne voglio una parte anch'io. e la salutiamo. E permettetemi anche di salutare anche mia sorella Daphne, che oggi fa il compleanno. E io mi ci metto in mezzo, che faccio tanti auguri di pronta guarigione a Caterina, la mia amichetta che per ora sta a letto con la febbre. Dai, riprenditi. Noi ti pensiamo. Senti, allora mi sembra che questo è... Siamo arrivati il momento dei saluti, sì. Ma prima... La trasmissione è volata come al solito. Esatto, ma poi con Katia qua... In un attimo, Soc. E allora, praticamente adesso è il momento di chiedere a Katia il colore, perché come sapete, cari radioascoltatori, questa trasmissione si chiama I colori dell'anima, perché alla fine della puntata noi chiediamo ai nostri ospiti di dirci un colore che li contraddistingue particolarmente, o che contraddistingue il loro stato d'animo di quel momento, o che contraddistingue proprio gli argomenti di cui si è parlato nel corso della puntata. Perché vogliamo pensare che ogni emozione, ogni aspetto dell'animo umano possa avere un colore, una sfumatura. Vogliamo immaginarcelo così. E quindi proviamo ogni volta a chiedere ai nostri ospiti di definire in qualche modo un colore che possa dare l'idea di quello di cui si è parlato, o della persona stessa, per esempio. E allora, Katia, tu che cosa ci dici? Qual è il colore che ti rappresenta? Beh, il mio colore è il rosso. Ma no, non avevo dubbi. Non l'avremmo mai detto, no? Guarda. Ma e sai anche perché? No. Ah, come il fazzoletto rosso del tuo papà. Anche nel rosso dei tetti di Bologna. Perché bisogna anche dirlo, sia a Bruxelles si sta bene, c'è il calore umano, ho conosciuto un sacco di gente che mi vuole bene, che continua a sostenermi giorno dopo giorno, però a Bologna in Italia c'è comunque anche una parte di Katia, e che quindi con questo colore rosso, il colore della passione, il colore del fazzoletto di Luciano, il colore della passione, sì, esatto, e soprattutto il colore del ragù bolognese, oh! E allora con il colore rosso noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e ci diamo appuntamento al 15 dicembre, quando ci sarà la trasmissione speciale con tutti i gruppi, con tutte le equip dei colori dell'anima. La prossima settimana invece avremo Rosanna e Anna Maria che parlano di bullismo, non le perdete perché sarà una trasmissione interessantissima. E salutiamo anche Cecilia che dice: vogliamo il corso di tortellini. Assolutamente sì. E io ne approfitto per fare un altro augurio di compleanno ad Alessandra, la mia amica che fa il compleanno, me lo stavo dimenticando. Come e ancora facevo? Tanti auguri da Fnuccia. Ciao a tutti, ci sentiamo presto. Grazie Katia, in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao.